il Signore disse a Mosè: «Di ai figli di Israele di ritornare e di accamparsi di fronte a Pi Achirot, tra Migdol e il mare, di fronte a Baal Zephon. Vi accamperete davanti a quel luogo, ai bordi del mare. Il Faraone penserà dei figli di Israele: vagano qua e là nel paese, il deserto si è chiuso su di loro. E indurirò il cuore del Faraone e li inseguirà, e io prenderò gloria dal Faraone e da tutto il suo esercito, e l'Egitto saprà che io sono il Signore». Essi fecero così. Fu annunciato al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e il cuore del Faraone e dei suoi servi si rivoltò verso il popolo e dissero: «Perché abbiamo fatto questo, di mandar via Israele dal nostro servizio?» Fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese 600 carri scelti e tutti i carri d'Egitto, con il terzo uomo su ognuno di quelli. Il Signore indurì il cuore del Faraone, re d'Egitto, e questi inseguì i figli di Israele. I figli di Israele uscirono con mano alta. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero quando erano accampati presso il mare, a Pi Achirot, davanti a Baal Zephon. Tutti i cavalli, i carri del Faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito. Il Faraone si avvicinava. I figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani si muovevano dietro a loro. I figli di Israele ebbero molta paura e gridarono al Signore. Dissero a Mosè: «Eravamo forse senza tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Perché hai fatto questo, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti dicevamo in Egitto? Lasciaci stare a lavorare in Egitto, perché è meglio per noi lavorare in Egitto che morire nel deserto». Mosè disse al popolo: «Non temete, siate saldi e vedrete la salvezza che il Signore opera per voi oggi. Poiché gli egiziani che vedete oggi non li vedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi sarete tranquilli». Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Di ai figli di Israele di partire. Tu alza il tuo bastone e stendi la tua mano sopra il mare e si separi, e i figli di Israele passino in mezzo al mare all'asciutto. Ecco, io indurisco il cuore degli egiziani, li seguiranno, ed io trarrò gloria dal Faraone, da tutto il suo esercito, i suoi carri e i suoi cavalieri. E l'Egitto saprà che io sono il Signore, quando trarrò gloria dal Faraone, dai suoi carri e cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, si mosse e andò dietro a loro, e anche la colonna di nube si mosse dal davanti e passò dietro. Venne così tra l'accampamento degli egiziani e l'accampamento di Israele. La nube era oscura per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte, e tutta la notte non ci si avvicinò l'uno all'altro. Mosè stese la sua mano sopra il mare, e il Signore sospinse il mare con un forte vento dell'est tutta la notte e mise a secco il mare. Il mare si divise. I figli di Israele vennero in mezzo al mare all'asciutto, e l'acqua era per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani inseguirono, e tutti i cavalli del Faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, giunsero dietro a loro in mezzo al mare. Nella veglia del mattino, il Signore guardò l'accampamento egiziano attraverso la colonna di fuoco e la nube, e mise la confusione nell'accampamento egiziano. Frenò le ruote dei loro carri, per cui guidavano a fatica. Gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro l'Egitto». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sopra il mare, e l'acqua torni sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la sua mano sul mare. Verso il mattino, il mare tornò al suo posto consueto. Gli egiziani fuggirono di fronte ad esso e il Signore travolse gli egiziani nel mezzo del mare. L'acqua ritornò e coprì i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che veniva dietro a loro nel mare. Di loro non ne restò neppure uno. Invece i figli di Israele avevano camminato all'asciutto in mezzo al mare e l'acqua fu per loro un muro a destra e a sinistra. Quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano dell'Egitto e Israele vide gli egiziani morti ai bordi del mare. Israele vide la grande potenza che il Signore aveva usato contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette a lui e a Mosè, suo servo.